finisce la scuola, quella macchina non mi piace, preferisco le macchine sportive. Quest'anno le vacanze estive finiscono il 24 settembre.